Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it. Melog. Il piacere del dubbio. Gianluca Nicoletti. Allora, perché è così importante accendere un fuoco? Col fuoco posso riscaldarmi, posso fare segnalazioni di soccorso, posso far bollire l'acqua, posso tagliare. In che modo? Se io ho un ceppo lungo, grosso, il fuoco lo accendo sotto, lui farà il lavoro mio fisico, cioè bruciando centrale lui mi taglia. Poi taglio. Poi posso farmi delle armi e far indurire una punta di una lancia sul fuoco. La faccio indurire perché il seccare, il calore del fuoco indurisce la punta che a me serve. Mai poi mai dovrai usare il coltello, legarlo qua, come si può vedere in qualche telefilm, eccetera, e farmi un'arma col coltello. Perché? Perché se io rompo il coltello è l'unico attrezzo che ho per lavorare, è sbagliatissimo. È un rischio da non correre. Assolutamente. Però come per il riparo, qual è la cosa più importante? Consumi dell'energia. Esatto, consumi dell'energia. Secondo, il motivo principale per il quale io lo devo accendere è sempre psicologico. A te sicuramente sta iniziando a arrivare la stanchezza. Sì. Il freddo serale, la pioggia aumentano il tuo disagio. Questo signore insegna come e perché accendere un fuoco all'aperto. È un canale YouTube, Reportation TV, che appunto racconta queste vicende di sopravvivenza. Il movimento degli appassionati della sopravvivenza è un tema che abbiamo già toccato, già abbiamo lambito nel nostro programma, quando abbiamo parlato dei prepper italiani, che sono i survivalisti, quelli che pensano, nasce un movimento che nasce negli Stati Uniti ai tempi della guerra fredda. Le persone si costruivano un bunker antiatomico, si preparavano appunto a dover vivere in un fallout nefasto. Poi, andando avanti nel tempo, i pericoli sono differenziati, ma l'ultima attenzione appunto di questo gruppo, che è anche molto corposo in Italia, sono varie persone che di questo si stanno occupando, è proprio come prepararsi a un cambiamento di vita radicale dovuto a un inasprimento di una possibile pandemia da coronavirus. E quindi si stanno organizzando a pensare, ma se ci fosse un problema nelle città ci organizziamo, andiamo nelle campagne, ci pensiamo a fare una vita diversa in cui piccoli nuclei, immagino che questo stia pensando, si organizzano per vivere in maniera più agreste. Quello che insomma io ho fatto anche quest'estate, sono stato qualche mese in una casa in campagna, stavo solo con mio figlio, in fondo stavo sereno e tranquillo, facevamo l'orto. Ma questo corrisponde però come tendenza a una nuova moda che nasce negli appassionati di Instagram. Ne parla l'inchiesta, fa un reportage su questa nuova tendenza della sopravvivenza. Persone postano in Instagram delle storie in cui loro vengono rappresentati, che vanno in mezzo dei boschi, accendono un fuoco di fortuna, cucinano la carne all'aperto. Dal pezzo dell'inchiesta di Claudia Saracco, vedo che ci sono varie declinazioni questa possibilità di cucinare carne all'aperto, si chiama wild food, outdoor cooking, che sono tutte maniere per definire la capacità di cucinare all'aria aperta. Ci sono uomini sia dal punto di vista della rappresentazione virile dell'uomo dei boschi, vanno lì tutti tatuati col pezzo di carne, accendono fuoco, sia raffinatissimi cuochi giapponesi che con il loro wok prendono l'acqua in un ruscello, si fanno il pesce saltato però in mezzo a un bosco. Ora, tutto questo mi fa pensare a qualcosa che appartiene alla mia autobiografia. Io, venendo dalla campagna e essendomi inurbato per necessità professionali, ho sempre usato come mia più potente arma di seduzione nei tempi in cui aveva per me un senso essere seduttivo, l'essere capace di andare in mezzo a un bosco e cucinare magari delle salsicce allo spiedo, qualche bistecca, qualcosa del genere. Qualcosa che destava uno stupore immenso. Sembrava una cosa che, non so, una qualità, un superpotere che nessuno dei miei colleghi romani, che hanno studiato tutti con naso rosa, che hanno frequentato importanti università, che erano molto più bravi, molto più introdotti di me, sapevano fare. E quindi era il mio superpotere. E ancora tuttora, quando mi capita di andare in campagna a visitare amici che hanno tavernette, case in campagna, casolari, io sono quello che deve accendere il fuoco e cucinare la carne al fuoco. Perché? Perché sembra una cosa tanto difficile, per me è normalissimo. Datemi una fila di salsicce di Norcia e un acciarino che ho sempre nel mio coltello di sopravvivenza, me ne vado in mezzo a un bosco e vi cucino le salsicce, non ci vuole nulla. Ecco, quanto oggi voi invece sareste pronti a fare questo cambio radicale di vita? Quanto vi state preparando? Non voglio fare il catastrofista, ma immaginate che per qualche ragione fossimo costretti a abbandonare le città e andare nelle campagne. Cosa sareste capaci di fare? Sapreste tirare il collo a una gallina, spennarla, passarla alla fiamma, pulirla all'interno e cuocervela in mezzo a un prato senza appiccare incendi? Sapreste procurarvi dell'acqua potabile? Sapreste farvi un riparo per la notte? Riuscireste a dar da mangiare alla vostra famiglia e ai vostri figli con le vostre stesse mani? Ne parliamo con serenità, visto che è una moda Instagram, quindi una cosa fighetta, visto che quelli che si occupano per hobby di sopravvivenza a questo stanno occupando. Vorrei capire quanto il campione medio del mio pubblico in questo momento è bravissimo a fettare la cipolla e con perizia buttarla nell'olio bollente, è pronto e disposto ad abbandonare la città e con le stesse mani e cucinarsi in mezzo a un bosco, in mezzo a un campo, come facevano gli uomini rudi di una volta. 800240024. Sono dei vari metalli che sfregati assieme faranno delle grosse scintille, ma risultano comunque scintille. Quando tu con il tuo fire steel avrai la prima scintilla, non riuscirà sicuramente ad accendere un tronco, chiamiamolo tronco, nonostante sia bello asciutto eccetera, così grande. Quindi ti sei creata prima del trucciolo, quindi molto morbido, asciutto, secco, ok? Quando la prima fiammella comparirà da questa, allora comincerai a porre a forma di tepì, ok, tepì indiano, sì. Pian pianino porrai tutto intorno questi ramettini piccolini piccolini, man mano che vedi che inizia ad aumentare la fiamma e quindi il calore, ti puoi permettere di mettere i ramettini sempre un pochino più grossi. Fai un bel gomitolo, ovviamente non devi mai utilizzarla tutta, perché se qualora si spegnesse durante la notte il fuoco, devi poter riaccenderla. Esattamente, se tu la consumassi tutta è un grosso errore. Otto zero zero ventiquattro, questo è il rumore del mio acciarino che sto in questo momento facendo scintillare davanti al microfono. Mi può vedere chi mi sta guardando attraverso il video sul sito di Radio 24? Ho un acciarino e faccio le scintille. Ora, fra queste scintille accendo un fuoco, devo dire c'è, ce ne passa veramente, perché come ha detto giustamente questo signore, occorre mettere dei tucci di legno, che la scintilla non fa niente, in questo momento nemmeno incendia il mio microfono. Però una volta ammesso si è riuscito a accendere un focherello, come lo gestite il fuoco? Come fate in modo che non appicchi un incendio? Come lo alimentate? Avrete già preso la legna? Vi siete procurati la legna, non avete nulla a disposizione. Immaginate che io ho soltanto questo mio coltellino svizzero che all'interno ha una seghetta che mi permette di tagliare dei rami con un diametro anche di una decina di centimetri, quindi posso fare un bel focherello. E qual è il momento in cui bisogna mettere la carne sul fuoco? Se non avete una graticola, come fate? Non avete una griglia, non avete uno spiedo, vi costruite uno spiedo. E quale carne mettete sul fuoco? Come ve la procurate? Curate la carne, ce la compro dal macellaio, e mica è detto che ci sono i macellai. Se bisogna scappare all'improvviso dalle città, abbandonare le città perché un'invasione zombie, un pericolo di Covid, un qualunque problema ci allontani, ecco, dove procuriamo la carne? Beh, si caccia, è come cacciate, mica avete il fucile, ci sono tanti cinghiali in giro, sì, prendetelo un cinghiale, solo con un coltello. Ci sono animali più piccoli, sì, alla fine, ve lo dico io, mangerete soltanto radici, mangerete foglie, mangerete insalata selvatica e mangerete qualche scarafaggio e qualche verme, perché è molto difficile sopravvivere. 800240024, sapevo che il mio pubblico non mi avrebbe tradito, già ho pronta una fila nutrita di persone che danno consigli. Alessandro, buongiorno. Buongiorno Gianluca. Dunque, io non so se posso definirmi un survivalista, però io sono ricostruttore storico. E noi nella nostra associazione studiamo l'epoca antica, parliamo dell'epoca antico, e di come la società vivesse e sopravvivesse in quei tempi. E quindi ti sarà utilissimo. Allora, giochiamo sul paradosso una volta tanto, così almeno giochiamo. Sì. Metti caso che fra poco, breaking news, lasciate immediatamente le vostre case di città, la salvezza nelle campagne. Tu che faresti? Allora, io applicherei le modalità di vita, semplicemente, quelle che hanno funzionato già nell'epoca antica. E che ti porti dietro da casa? Che ti porti dietro da casa? Ma che sicuramente ti porti? Un'ascia. Un'ascia, ce l'ho. Semplicemente un'ascia e un coltello, basta. Con quello, diciamo, puoi fare il 90% di quello che ti serve in una prima fase. E poi devi conoscere altre tecniche che devi aver studiato, ma parliamo di cose più complicate. Però già con un'ascia e un coltello sopravvivi. Diciamo, bisognerebbe tenersi sempre a portata di mano in casa, senza questo rappresenti un pericolo, almeno un'ascia e un coltello. In questo momento potete vedermi... Un pediccio, nel senso no. Sono attrezzi ancora attuali, che alla fine tutti hanno più o meno. No, guarda, casualmente, lo sto facendo vedere dalla telecamera che mi sta inquadrando. Casualmente avevo proprio un'ascia e un coltello con acciarino, li sto facendo vedere alla telecamera. Esatto, ma non perché, perché me l'ero comprata quando avevo una casa in montagna, non l'ho mai usata, è ancora nuova, sigillata, però è bella, è carina, con un manico ergonomico, qualcosa che potrebbe servire sicuramente nell'uso. Quindi basta un'ascia e un coltello, è la base. Ma sai, il ragionamento alla base è che se è una cosa che ha già funzionato nella storia per far campare gli uomini, adesso non possiamo immaginare quali saranno gli scenari futuri, no? L'acciarino però ci devi mettere, l'acciarino per accendere il fuoco, no? L'acciarino ci vuole. Ma sai, quello col coltello stesso è una pietra selce, tu hai un acciarino. Nel momento in cui strisci forte il bordo del coltello... Però guarda, io l'ho comprato su Amazon, costerà 10 euro, non è una spesa immensa, sì. È una cosa piccolissima. Dire, senza voler arrivare a forme estreme di survivalismo, per cui uno si fa tutti i kit strainventati, no? Cioè, con quello che già abbiamo dentro casa si può fare, non c'è bisogno. Basta sapere come campavano i nostri vecchi, cosa che tu spesso hai raccontato della tua casa in campagna in Umbria, eccetera, eccetera, ma che però è andato via via dimenticato. Ma certo, io ho imparato in casa a fare queste cose. Noi 100 anni fa campavamo come nel Medioevo, in certe zone d'Italia. Ma figurati, ma nella mia fanciullezza ancora era normale. Io mi ricordo ancora le signore dei contadini che andavano al campo portandosi dietro un po' di pasta già impastata, la famosa torta al testo di Perugia, se la facevano mentre potavano la vigna o raccoglievano l'uva, accendevano un focherello, mettevano questa pietra, ci stendevano sopra la pasta e la torta al testo era così, era qualcosa che si faceva in campagna. Oggi sembra una fighettata e probabilmente da questo mio consiglio qualcuno si farà subito la storia su Instagram. Antonio, buongiorno Antonio. Buongiorno Gianluca. Aggiungi altri consigli per la nostra fuga verso le campagne di sopravvivenza. Allora, intanto premetto questo, che già l'esperienza di militare, un militare attivo come gli alpini, questo aiuta. Poi anche l'esperienza di coetanei miei e tuoi può aiutare, perché noi che abbiamo vissuto nelle campagne, io da bambino ero in grado perfettamente di pulire una rana, di pulire un pesce e di metterlo anche al rosto. Sì, il pesce magari sì, la rana non ci sono mai arrivato, perché mi faceva un po' senso. Il pesce sì, ma lo apri col coltello. Nella mia zona è un cibo prelibato, noi eravamo in grado benissimo di fare queste cose. Oggi direi che con la gioventù d'oggi è un po' meno avvezza a girare in boschi, girare in prati. Ti faccio la domanda che ho fatto anche Antonio. Prego. Tu saresti in grado, se oggi ci fosse breaking news, lasciate immediatamente le città, chi può si salvi, vada in campagna, vada nei boschi. Assolutamente. Tu cosa ti porteresti dietro? Che ti porteresti dietro? Come l'ascoltatore precedente, prenderei un bel coltello, perché con quello posso tagliare il legno per fare frecce, per fare archi, per fare spiedi. Quella è la prima cosa. E poi è chiaro, per andare... ma la cordicella dell'arco con che la fai? Perché, capito, io voglio entrare nei particolari, devo portarsi anche un po' di corde. Assolutamente, assolutamente. Poi ci si può aiutare anche con quello, con delle erbe, dei pezzi. Comunque la corda, ma allora è meglio farsi una lancia, scusa, fai la punta a un palo, ci fai la lancia. Certo. Tutti attrezzi da Rambo, versione moderna, insomma. Velocemente, Luigi, un'altra persona. Luigi, Stessa domanda anche a te. Saresti pronto a abbandonare la città, andare in campagna? E come daresti da mangiare alla tua famiglia, alle persone care che porti con te? Sì, allora lo farei in sicurezza però. Certo. Bisogna, io posso brevemente posso dire che sono uno scout da tantissimi anni. Vabbè, allora, stai giocando sporco, tu sei capacissimo a fare qualunque cosa, che discorso, sei lo scout. Quindi però posso capire la necessità e anche di l'esigenza dei ragazzi, dei bambini. Quindi uno scout sarebbe avvantaggiato secondo te, lo scout potrebbe sopravvivere meglio degli altri? Assolutamente sì, avvantaggiato. Il vero problema sarebbe che se partono 500 cittadini da una città e vanno in un bosco, dopo 10 minuti quel bosco è già incendiato, per questo ci vuole anche un po' di capacità di gestire il territorio, non basta semplicemente sapere accendere il fuoco e cucinarsi la carne. È per quello che parlo di sicurezza. Noi adesso sono in tanti anni, sono cambiate diverse norme, diverse regole, noi non possiamo più fare un campo senza portarci dietro un estintore, per esempio. Sì, però tu capisci che in caso, che ne so, di invasione zombie, epidemia Covid, pestilenza, le norme non esistono più e ritorna l'antica detestabile legge del più forte sopravvive e il più debole soccombe. Ci fermiamo un istante. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta... Melog. Oggi mi sono costruito il mio kit di sopravvivenza. Allora iniziamo dalla piletta, è una pila dinamo a 3 LED, fa una luce molto potente e non ha bisogno di batterie, si carica così manualmente, della benzina, un richiamo per gli uccellini, degli ami da pesca, il coltellino multiuso, abbiamo il kit di pronto soccorso, abbiamo anche un termometro, qui dentro abbiamo delle micette e spaventare eventuali animali o predatori, del nastro isolante, una clessidra per accendere il fuoco. La clessidra. Qui abbiamo un accendino con una pietrina manuale e poi abbiamo un contatto elettrico che fa le scintille, sempre preso da un accendino. Dopo vi farò vedere a cosa servono questi filtrini. Abbiamo i cerini. Scusate, sto ridendo, ma questo esperto in sopravvivenza napoletano che porta dietro le micette per spaventare gli animali selvatici, e non so, ho capito bene, per fare una qualcosa che fa un contatto elettrico per fare le scintille, quando ci sono degli ottimi acciarini. Oggi ho lanciato questa provocazione, non l'avessi mai fatto, ho sollevato un vespaio. Decine e decine di ascoltatori stanno telefonando dichiarandosi pronti, diciamo, pronti ad affrontare comunque anche la natura più selvaggia per poter sopravvivere. Questo mi fa piacere perché devo dire che comincia a serpeggiare anche in Senato una paura del Covid, dei senatori sono stati trovati positivi e quindi in questo momento stanno bloccando tutto in questo esatto istante, quindi se nei palazzi istituzionali comincia a serpeggiare la paura della pandemia, cosa succederà? Non voglio gettare allarmismi, stiamo soltanto in questo momento prefiggendosi uno scenario che i survivalisti italiani su cui stanno lavorando. Se un domani fosse più salutare per tutti andare verso le campagne, ci siamo domandati se noi siamo in grado di sopravvivere, di provvedere a mangiare, a procurarci il cibo, a procurarci un riparo. E vedo che le persone sono ben attrezzate. Sentiamo Eraldo. Eraldo, buongiorno. Ciao, ciao Gianluca. Mi viene da ridere nel senso che questo programma è straordinario. Io mi ricordo qui in Trentino negli anni, fine anni 70, inizi anni 80, un tuo collega, si chiamava Pachievich, no? Aveva organizzato queste settimane di sopravvivenza e noi ragazzi eravamo tutti entusiasti di vedere questa gente che veniva dalle grandi città con queste macchine, ci piacevano più le macchine che altro, macchine fuori serie, le Ferrari, le Porsche, eccetera, e arrivavano, facevano questa settimana di sopravvivenza facevano ridere perché tiravano una corda sul torrente, dovevano passare dall'altra parte, cercavano di Però ti facevano ridere, io non riderei tanto. Se tu domani fossi costretto a lasciare la tua comoda casetta con il riscaldamento e l'acqua corrente, cosa riusciresti a fare in mezzo a un bosco? Guarda, niente. Io non lo so, però è venuto anche Renato Pozzetto e hanno fatto un film su sta storia della settimana di sopravvivenza. Ma questa gente ci credeva veramente e cercava di azionare le trote, cioè robe allucinanti. Il problema è che poi alla fine della settimana avevano perso un po' di chili e nel ristorante di vicino praticamente facevano indigestione. Vabbè, tu la metti a ridere, io non sto ridendo, io sto dicendo, se veramente faccio un test, la media del pubblico che ascolta la radio a quest'ora, che è una media considerevole del sentire del nostro paese, sarebbe mai pronta di affrontare una vita diversa se per necessità qualcuno questo chiedesse di fare? Sentiamo Edoardo, buongiorno. Edoardo. Buongiorno Nicoletti, lei mi piace. Come sei molto attrezzato e cosa sapresti fare te? Questo voglio capire. Io intanto in questo momento sto esponendo il mio seghetto multiuso che porto nel mio coltello di sopravvivenza, il mio acciarino e la mia ascia, che finora sono i tre strumenti che mi sono stati consigliati. Tu cosa ti porteresti per sopravvivere? No, io ho già fatto. Ah, già, racconta. Allora racconta. Ho dei trulli nella campagna di Ostuni, quindi siamo a un'ora di camminata per arrivare in città. Avevo 15 giorni di ferie, se no me li rubavano. E le hai passate nel trullo, ti sei intrullato? Sì, mi sono strullato e ho voluto fare un esperimento di solitudine, perché sono andato da solo con i miei tre cani. Il problema I cani che si mangiavano, tanto per cominciare, si arrangiavano i cani? Avevo portato il cibo, cioè, ho tutto lì. Ho tutto. Come stare a casa? Scusa, allora hai attrezzato un trullo come se fosse una garçonnière, accendi il frigo, l'aria condizionata, è facile, apri il freezer e tiri fuori le bistecche. Mica così si fa. No, alto un momento. Prima di tutto ho piovuto 10 giorni su 14. Se stai a casa con il wifi e con Netflix acceso, che ti cambia? Come stare a casa? E io il quarto giorno ho cominciato a parlare con i cani, perché ero da solo. Vabbè, è diversa, comunque la sopravvivenza ha dei problemi primari, non è il problema della socializzazione, prima ancora è il problema di salvarti dal freddo, dagli animali feroci o aggressivi, e poi di mangiare. E quando hai risolto questi problemi poi pensa anche alla socializzazione. Lavorateci di più. Massimo, buongiorno. Buongiorno Nicoletti. Allora, siamo concreti, non è questione di sentirsi soli. Allora, io rido già perché sono molto scettico, nel senso che io sono figlio di un cuoco, ma sono sincero, ma lo dico proprio francamente, io sarei capace di fare una mazza. Perché siamo la generazione 2.0, siamo quelli che se devono ordinare i sushi, app, se lo ordinano. Ma voglio anche porre un altro punto di vista, mi preoccupa ancora di più proprio la generazione 2.0, quindi i miei figli che hanno 14 e 17 anni, che non sono capaci nemmeno di bollire un uovo. Un bel lavoro, sì, un bel lavoro. Quindi è inutile che siamo qui a parlare tutto di survivalismo. Quindi i tuoi figli morrebbero di fame subito, li butti in mezzo a un bosco, che fanno? In questo momento io, a me, molto, ma ne sto parlando proprio seriamente, sarei molto impaurito. Tuo padre era cuoco, tu saprai cucinare benissimo, ma se hai una Molteni d'ultima generazione davanti, se no che fai? Allora magari se sono fortunato di trovare quattro bacche e ho dell'acqua e ho, che ne so, mi capita di avere un pentolino, magari riesco a bollire le bacche. Ma devi stare attento, se pigli quelle sbagliate ti prende la diarrea per una settimana. Sì, quello è il problema. Verissimo. Le bacche mica è facile, confondono facilmente. Forse i funghi, ma anche i funghi, se non li conosci, che fai? I funghi, becco subito la manita palloide se vado all'altro mondo. Quelli sono cavoli, come suol dire in quel caso. Cioè, vabbè, Massimo, te devi morire, mi dispiace dirlo. Valeriano, vediamo un po' se Valeriano si salverà. Valeriano. Pronto, buongiorno Nicoletti. Sì. Allora, noi questa cosa che va tanto di moda su Instagram la facevamo 30 anni fa. Partiva, si andava sulle montagne abruzzese una settimana, due canne da pesca, un paio di coltelli, qualcosa. Ma in montagna dove si fuoco. Pesca? No, in montagna dove pescavate? Nei laghetti alpini? Dove, cioè, no, si seguivano i corsi dei fiumi, come il Fangoro per esempio. Ah, si seguiva il corso del fiume e per una settimana mangiavi quello che pescavi o quello che trovavi. Ecco, questo mi interessa, però si riusciva a sopravvivere due ragazzi, diciamo, abbastanza capaci, senza, soltanto con ami, canne da pesca e coltelli, passeggiando per le montagne abruzzesi? Avanzava, sì, assolutamente sì. Spesso e volentieri si doveva, il problema era come conservare quello che si era pescato. Solo di pesce però, diciamo, solo di pesce, se non c'è il pesce è finito. Se non c'è il pesce ci sono le anatre, ci sono gli uccelli acquatici, che comunque era semplice prenderli, insomma. Diciamo, allora tu consigli che nel caso noi dovessimo andare verso le campagne, stare vicino a corsi fluviali, che c'è più possibilità di sopravvivere. Assolutamente sì, anche gli animali stanno tutti lì vicino. Oddio, se è il Tevere si mangiano i topi, le pantegane, le nutrie, non so che altro, però che altro che oggi non c'è più niente, oggi tocca veramente fare come Fantozzi e mangiare i topi. 30 anni fa, 30 anni fa il pesce. E poi dobbiamo essere realisti, allora, ci fermiamo ancora per la successiva pausa, non dirò più ci fermiamo un istante, mi ha scritto un signore, perché dice un istante, poi sono 7 minuti, non è a me dato prevedere il tempo in cui dovrò stare silenzioso, però fra un po' prendiamo realisticamente quello che oggi si può fare. Inutile pensare una natura generosa, oggi c'è una natura ostile, martoriata, con pochissime risorse, eppure dovremmo sopravvivere andando in campagna con le nostre nude mani. Ci fermiamo. Intimissimi uomo, boxer a 7,90€, nei negozi e online. Vi presenta Melog. È tornato il freddo, un sacco di pioggia, pioggia e freddo, è tornata anche la neve. Spero che tenga quel sasso sopra la piastra per cucinare. Un po' di sale. Ah, ho tolto anche una piastra, solo più una, per avere ancora più aria e un po' di fuoco. Ottimo, direi. 800240024, stiamo parlando di sopravvivenza, di possibile sopravvivenza. Se fossimo, per esempio, per ipotesi peregrina e lontanissima, di cui nessuno si augura possa accadere nella nostra storia, fossimo costretti a lasciare le città perché troppo contaminate, perché invase da zombie, invase da virus e via dicendo, e ci fosse detto da oggi emigrate tutti nei boschi e sopravviva al migliore, non c'è protezione civile, non c'è nessuno ci porta le tende, non c'è niente. C'è un periodo da affrontare in cui dobbiamo soltanto procurarci cibo, procurarci sopravvivenza con le nostre mani. Voi cosa fareste? Beh, vedo che la media del nostro pubblico è abbastanza attrezzata. Ci sono quelli con una radicale, indissolubile vena umarellica che si arrangerebbero, quelli che già dicono in partenza e non saprei cosa fare. Intanto ringrazio Pietro Dalla Corte che mi mette in onda da Milano, Alessandro Chiappini, Gloria Guerrero e Fabrizio Intonti che sono in mezzo a un bosco, vedo, non so bene dove, forse nei Castelli Romani, hanno una postazione esterna, e sento subito l'ascoltatore Vincenzo. Vincenzo, buongiorno. Buongiorno a lei, signor Nicoletti. Niente, io telefono da Roma e per la sopravvivenza, appunto, dicevo, a me basterebbe solo un acciarino, perché per il resto la natura ti dà tutto, cioè sia dalle barche... Mi faccio un esempio, lei la prendo in questo momento, la butto in mezzo a una montagna, a un bosco in Abruzzo, in un posto isolato, e lei ha solo un acciarino, cosa fa? Esatto. L'istante che io la mollo, cosa fa? Immediatamente in cerca di crini di cavallo, o comunque di punte di coda di vacca, crini, sempre crini. Quindi lei dovrebbe essere sicuro che comunque è una zona di vita al pascolo, mica è detto sempre. Sì, esatto, no vabbè, tante volte. Beh, come crini di cavallo e pelo di vacca. Dei lacci, dei piccoli lacci legati su un bastoncino vicino a delle sorgenti d'acqua dove gli uccelli vanno a bere. Ah, fa delle trappole per uccelli. per il collo. Poi ci sono le stiacce. Mi sembra una cosa quando... molto difficile. Scusi, prendere gli uccelletti col pelo di vacca non mi sembra una cosa facilissima. No, non l'ho fatto da bambino. Io sono a Roma, ma ho vissuto in campagna. Facevo solo questo. Vabbè, lei c'ha questa tecnica speciale. Lei andrebbe. No, solo questa. Cattura uccelli col pelo di vacca, è una cosa. Vabbè, no. Poi se li mangia. Sì, accendi il fuoco, li mangi. Poi ci sono le spiagge. Cioè, la spiaggia è una pietra grande, viene sollevata di 90 gradi con dei bastoni, con delle assi che messe in una certa posizione. Quando la ha una trappola, una trappola insidiosa, esatto. Insidiosa. Esatto. E che ci mette nella schiaccia? Che ci prende? Le lepri che ci prende? No, animali più piccoli, tipo scoiattoli, tipo martore, tipo... E si mangia lo scoiattolo? Certo. E si mangia lo scoiattolo? Certo. Sì, però mi sembra che la prenda tanto alla lontana. Sono tecniche primitive di caccia. Però non sarebbe più semplice andare per funghi, raccogliere la cicoria, non lo so, mi viene in mente. Sì, ma quelle sono bacche, sono verdure. Però se parliamo di animali, gli animali si prendono in questo modo qui. Oppure andare, per esempio, per spinose, la spinose, come si chiama? L'istrice. Anche l'istrice è cacciata. Ma è un animale protetto, ce ne stanno pochissimi. Ma sembra raro l'istrice. Però, ma se io ho fame, che faccio? È protetto? No, se ho fame mangio tutto, certo. Sì, poi con gli aculei dell'istrice si può fare un sacco di cose, punte di freccia, galleggianti per pescare, non lo so, un sacco di roba. Vabbè, lei è sulla strada giusta. Faccio sentire Manuela, che finalmente chiama una signora. Pensavo fosse una trasmissione relegata ai soli uomini, invece per fortuna c'è una signora. Manuela, ci aiuti? Lei cosa farebbe? Buongiorno Nicoletti. Allora io parto avvantaggiata perché vivo in montagna, ho una piccola azienda agricola con frutti di bosco e tutto, quindi se mi dovessi rinchiudere in casa, io periodo Covid per esempio sono sopravvissuta praticamente senza andare a fare la spesa per un paio di mesi. Ma le erbe selvatiche dentro casa dove le trovava? No, per capire. No, ho un'azienda agricola, quindi ho 2 ettari un po' misto, bosco, cespugli. Il lockdown in 2 ettari lo farei volentieri anch'io. Okay. No, escluso, diciamo, mettiamo che mi trovassi fuori. Allora la prendo, Manuela, la prendo in questo momento, la butto in mezzo a un bosco e la lascio lì, da sola. Allora, cosa si vorrebbe portare dietro? Il bosco sia comunque un ambiente, diciamo, non lontanissimo, non so, in Thailandia non ci sono mai stata, non me la No, forse a boschi nostri. I boschi nostri, allora io sono biologa, quindi diciamo parto avvantaggiata da una certa conoscenza di piante, animali, eccetera, ma sono anche una forager, cioè sono un'appassionata di piante selvatiche che si mangiano. Quindi lei si fa la misticanza tutti i giorni e intanto sopravvive. Ma non è la misticanza, c'è un sacco di cioè si può benissimo sopravvivere. Io sono vegetariana da una vita, non ci sono problemi a trovare le proteine anche nelle piante, quindi come primo periodo intanto parti, che sia estate o inverno, mangiando le piante che conosci. Però lei in questo è avvantaggiata perché fatica meno, non deve cacciare, se riesce a farsi una dieta equilibrata. In un secondo momento magari, siccome non è facile comunque riuscire a trovare abbastanza proteine in queste condizioni un po' estreme, allora ci si comincia a organizzare con quello che si trova, come diceva il signore prima, magari uno può anche cercare di prendere qualche piccolo animale, man mano. Se no, scusi, ma lei che è una biologa, con le larve e gli scarafaggi non si sopravvive? Volendo sì. Perché non siamo abituati noi. Sì, ci sono un sacco di insetti, ovviamente anche i funghi, per dire, sono proteici, però anche lì se uno parte che non ha la conoscenza in partenza è meglio che stia fermo, perché è più facile che si faccia del male che del bene. Ma lo stesso anche con le piante selvatiche, se uno non le sa riconoscere, non ha l'esperienza quando comincia il periodo critico, non è che le impara lì per lì, perché sennò si finisce come di Into the Wild, che ne assaggia quella sbagliata e poi il fegato... Certo, scoppi, chiaro. Questo è chiaro, Manuela è già avvantaggiata. Abbiamo Luigi, l'ultimo ascoltatore. Un istante solo che stiamo per chiudere. Luigi, ci dica il suo segreto. Buongiorno Nicoletti. Buongiorno. Allora, non è tanto segreto. Allora, prima cosa, intanto io ho fatto militare, che aiuta moltissimo. Sì, ma ci dica esattamente qual è il suo kit di sopravvivenza, poi devo chiudere. Allora, il mio kit di sopravvivenza, io ho sempre pronta in mansarda una cassetta in ferro ermetica 50x50, dove ci sono dentro munizioni, una pronta per una pistola da sopravvivenza, acciarini, corde, una vasca pieghevole per sopravvivere. Lei ha tutto, lei, ho capito già, lei ha un equipaggiamento quasi militare che avrebbe anche la pistola, quindi avrebbe anche possibilità di esigere il dominio della terra che lei percorre. Beh, mi sembra che abbiamo avuto abbastanza informazioni sulla nostra capacità di sopravvivere. Alla prossima. Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it.